senza la morte io non potrei, oddio, fare il mio atto di fede in te. La croce io non potrei, oddio, abbandonarmi e sperare in te. Senza il dolore io non potrei, oddio, fare il mio atto d'amore a te. Santo, mio forte, l'amore più